Sura 51. Azzariat. Quelle che spargono. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per i venti che spargono, per quelle che portano un carico, per quelle che scivolano leggere, per quelli che trasmettono l'ordine. Quello che vi è stato promesso è vero. E il giudizio avverrà inevitabilmente. Per il cielo solcato di percorsi, in vero avete opinioni contrastanti. È maldisposto chi è maldisposto. Maledetti i blasfemi che nell'abisso dimenticano. Chiedono: a quando il giorno del giudizio? Il giorno in cui saranno messi alla prova del fuoco sarà detto loro: gustate la vostra prova. Ecco quel che volevate affrettare. I timorati staranno tra i giardini e le fonti, prendendo ciò che il Signore darà loro, poiché in passato facevano il bene, dormivano poco di notte e all'alba imploravano il perdono. E nei loro beni c'era un diritto per il mendicante e il diseredato. Sulla terra ci sono segni per coloro che credono fermamente, e anche in voi stessi. Non riflettete dunque? Nel cielo c'è la vostra sussistenza e anche ciò che vi è stato promesso. Per il Signore del cielo e della terra tutto questo è vero, come è vero che parlate. Ti è giunta la storia degli ospiti onorati di Abramo? Quando entrarono da lui dicendo: pace, egli rispose: pace, o sconosciuti. Poi andò discretamente dai suoi e tornò con un vitello grasso e lo offrì loro. Disse: non mangiate nulla? Ebbe allora paura di loro. Dissero: non aver paura. Gli diedero la lieta novella di un figlio sapiente. Venne dunque sua moglie gridando, colpendosi il volto e dicendo: sono una vecchia sterile. Dissero: così ha comandato il tuo Signore. In verità egli è il saggio, il sapiente. Disse Abramo: o inviati, qual è la vostra missione? Risposero: siamo stati inviati a un popolo di criminali per lanciare su di loro pietre d'argilla, contrassegnate presso il tuo Signore per coloro che cedono. Ne facemmo uscire i credenti e non vi trovammo che una casa di sottomessi. Colà lasciammo un segno per coloro che temono il castigo doloroso. Come in Mosè, quando lo inviammo a Faraone con autorità incontestabile, ma volse le spalle insieme coi suoi. Disse: è uno stregone o un posseduto. Afferrammo lui e le sue truppe e li gettammo nei flutti per il suo comportamento biasimevole. E ci fu un segno negli Ad, quando inviammo contro di loro il vento devastante che nulla lasciava sul suo percorso senza ridurlo in polvere. E ci fu segno nei Thamud, quando fu detto loro: godete per un periodo. Trasgredirono l'ordine del loro Signore. Li colpì una folgore mentre ancora guardavano, e non poterono restare in piedi né essere soccorsi. Già distruggemmo il popolo di Noè. Erano gente malvagia. Il cielo lo abbiamo costruito con la nostra potenza e costantemente lo estendiamo nell'immensità. La terra l'abbiamo distesa e quanto bene la distendemmo. Di ogni cosa creiamo una coppia affinché possiate riflettere. Accorrete allora verso Allah. In verità io sono per voi un ammonitore esplicito da parte sua. Non associate altra divinità ad Allah, in verità io sono per voi un ammonitore esplicito da parte sua. Non mai giunse un messaggero a quelli che li precedettero senza che gli dicessero: sei uno stregone, un pazzo. È questo quel che si sono tramandati? È davvero gente ribelle? Volgi loro le spalle, non sarai biasimato. E ricorda che il ricordo giova ai credenti. È solo perché mi adorassero che ho creato i demoni e gli uomini. Non chiedo loro nessun sostentamento e non chiedo che mi nutrano. In verità Allah è il sostentatore, il detentore della forza, l'irremovibile. Coloro che saranno stati ingiusti avranno la stessa sorte che toccò i loro simili. Non cerchino quindi di affrettarla. Guai a coloro che non credono, per via del giorno di cui sono stati minacciati.